sento il cuore a rimettersi in calma. O ciel, già tornar mira. Disperato consiglio a noi la guida. Ah, traditore! Altrove vanne lungio superba. Barbaro, non potrei! Armina, o ciel, intenerirmi sento. Pure la raggiungiam! Ma in man lei giunse. Sentimi, e questi sian l'ultimi accenti. Un'altra volta il giuro, a te ritornerò, bellino il mio. Armina, addio. No, no, seguir te voglio, furente desperata. Ecco del mio furor la prova estrema. Empio, rivera, impallidisci.